Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Siamo consapevoli che i cittadini ancora una volta si chiedono sacrifici, rinunce, limitazioni alla loro ordinaria condotta di vita. Ancora una volta siamo costretti a compiere una sofferta operazione di bilanciamento tra diritti e libertà fondamentali. I principi che muovono oggi l'azione del governo nel contenimento del contagio sono sempre gli stessi. Sono quelli che ci hanno consentito di superare efficacemente la prima ondata della pandemia. Massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità. Lo ha ribadito oggi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il Presidente del Consiglio Conte nella sua informativa in Senato a proposito dell'ultimo decreto da lui emanato, e ha detto, insomma, che siamo consapevoli dei sacrifici che i cittadini devono fare, che hanno fatto finora, però la pandemia ci impone di tenere la tensione altissima. Torneremo naturalmente sul tema con il professor Pregliasco e con gli allarmi, insomma, che riguardano in particolare la Lombardia e la Campania, ma non solo. Insomma, adesso il coronavirus, a differenza dei mesi che abbiamo trascorso, dell'emergenza più nera, è diffuso un po' dappertutto in Italia, preoccupatissimo anche per esempio il presidente della Sardegna, alti contagi in Val d'Aosta. Comunque torneremo naturalmente inevitabilmente sull'argomento e poi parleremo anche di scuola con la segretaria generale della CISL Scuola, e i sindacati sono preoccupati, chiedono un incontro con la ministra, e poi domani sapete che parte il grande concorso straordinario per 32.000 posti. C'è poi una cosa straordinaria, almeno credo da inevitabile e impossibile non ritenerla tale, una svolta del Papa di cui parleremo, lo sentirete già dai titoli. 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp, lì potete commentare i fatti principali della giornata, 349-238-6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. L'andamento del coronavirus in Italia: sono 15.199 nelle ultime 24 ore i nuovi positivi e 127 i morti. Record di tamponi oltre 177.000. Conte in Senato dice: con i nuovi provvedimenti evitiamo chiusure generalizzate, lo stop alle scuole. Ma la Lombardia va oltre, coprifuoco, solo didattica a distanza per le superiori da lunedì e chiusura dei centri commerciali nel fine settimana. Scuola è al capolinea, denunciano i sindacati. Domani al via il concorso straordinario per 32.000 posti. La svolta del Papa Francesco apre alle unioni civili per le coppie gay. Gli omosessuali, dice, hanno il diritto di avere una famiglia. Musica, addio di Jarrett dopo Ictus. Non sono più un pianista, dice. Annuncio dell'artista, sta per uscire intanto il concerto di Budapest. Partiamo quindi dall'evoluzione del coronavirus in Italia. Ancora in salita i nuovi casi di positività al coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 15.199 i contagiati, ieri erano 10.874. Sono 127 i deceduti rispetto agli 89 di ieri. È il dato più alto da quando è ripreso a crescere il contagio, lo rende noto il bollettino del Ministero della Salute. E il Presidente del Consiglio Conte raccomanda di limitare gli spostamenti non necessari. Conte però rassicura che ora, dice, siamo pronti, l'avete sentito, la situazione è diversa da quella di marzo. E le regioni varano intanto nuove regole anti-Covid, coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino a partire da domani, consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza o da motivi di salute con autodichiarazione. Didattica a distanza da lunedì per le secondarie. Sono queste le misure previste dall'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Speranza e dal Presidente della Regione Lombardia Fontana, valida quindi fino al 13 novembre. Coprifuoco poi dalle 24 alle 5 deciso dal Lazio e didattica a distanza per le superiori al 50%, mentre il Veneto registra un boom di casi Covid, più 1.422 in un giorno, un dato doppio rispetto ai peggiori della prima ondata. Ma Zaia non chiude, dice, in Veneto in questo momento il tema del lockdown non c'è, non lo prendiamo in considerazione. Forte incremento poi dei contagi anche in Campania, dove venerdì sera inizia il coprifuoco col divieto anche di spostarsi tra province. A rischio la riapertura della scuola primaria la settimana prossima. Una pandemia che si allarga dunque, ma il Presidente del Consiglio Conte assicura non è necessario un lockdown generalizzato. La battaglia contro il Covid non è ancora vinta, bisogna continuare a tenere alta la guardia, ma l'Italia non è nelle condizioni di marzo, non è necessario un lockdown generalizzato, dice il Premier Conte riferendo in Senato sull'ultimo DPCM. Con le regioni potranno essere decisi altri coprifuoco a livello locale, siamo consapevoli dei sacrifici chiesti agli italiani, ma rispettare le prescrizioni permetterà di evitare misure più restrittive, dice il Presidente del Consiglio. Dobbiamo sforzarci tutti di evitare spostamenti non necessari, attività superflue che potrebbero generare rischio. Se saremo disposti oggi ad affrontare questi piccoli sacrifici, domani riusciremo ad evitare interventi più rigorosi e quindi più penalizzanti. La scuola resterà in presenza. Per il trasporto scolastico abbiamo stanziato 350 milioni aggiuntivi nel 2021, aggiunge Conte, il quale assicura poi che ci saranno aiuti anche per ristoranti e bar. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E Walter Ricciardi, professore di igiene all'Università Cattolica e consigliere del Ministero della Salute, durante il webinar, il seminario online Pandemia di Covid-19 in Italia, dice: le palestre vanno chiuse perché ogni giorno ci vanno milioni di persone, e anche se hai un gestore eccezionale e operatori straordinari, all'interno degli ambienti chiusi le persone si avvicinano, lo dimostrano studi scientifici, più o meno inconsciamente ci si avvicina, dice, in quel contesto devi prendere una decisione, ma non la puoi prendere guardando solo al tuo orticello. Per quanto riguarda la scuola, è al capolinea, denunciano i sindacati, domani al via il concorso straordinario per 32.000 posti, ne parleremo con la segretaria generale della CISL Scuola. C'è lo stop intanto al pagamento delle cartelle esattoriali fino al 31 dicembre. È arrivata la proroga, intanto il governo assicura che la manovra in arrivo aiuterà famiglie e aziende in difficoltà. La prossima manovra darà ossigeno immediato al paese per tornare a correre. Non ci sarà alcun aumento delle imposte, assicura il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Fino alla fine dell'anno il governo ha previsto anche la proroga dello stop per le cartelle esattoriali. La manovra, spiega Conte, stanzierà inoltre 4 miliardi per sostenere le attività economiche più colpite dalla crisi coronavirus. La ripresa sarà migliore se si riuscirà a frenare la diffusione della pandemia, afferma il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, confermando le stime di una crescita superiore al 13% nel terzo trimestre e un PIL a meno 9 a fine anno. Gualtieri si dice da sempre favorevole al meccanismo europeo di stabilità, provando così a spazzare via polemiche e divisioni all'interno della maggioranza. Ma dai microfoni di Radio 24 avverte: il beneficio non è da 37 miliardi l'anno, ossia la quota per la sanità che l'Italia può richiedere. Spiego un fatto tecnico che forse non tutti hanno del tutto chiaro, che il beneficio per l'Italia dell'utilizzo del MES non sono 37 miliardi aggiuntivi, ma sono il risparmio in interessi. E sul fronte fiscale, il ministro dell'Economia afferma che grazie alla riforma e alla rimodulazione del sistema, la riduzione dell'IRPEF sarà di un certo rilievo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Un dato particolarmente impressionante che viene dall'estero a proposito di coronavirus: la Spagna ha superato il milione di casi di Covid-19, lo ha annunciato il Ministero della Sanità. E poi la vicenda di Patrick George Zaki, che resta ancora in carcere, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, in prigione da febbraio con l'accusa in Egitto di propaganda sovversiva su internet. È stato respinto un ricorso presentato contro il prolungamento della custodia cautelare in carcere. Poi la svolta del Papa: Francesco apre le unioni civili per le coppie gay, dice gli omosessuali hanno il diritto di avere una famiglia, sarà tema di approfondimento con il nostro vaticanista. Per quanto riguarda la musica, Keith Jarrett chiude la sua carriera di concertista con una malinconica confessione al New York Times, dice: non so cosa mi porterà il futuro, quello che posso dire ora è che non sono un pianista. Il pianista che nel 2018 ha subito 2 ictus racconta la riabilitazione e le sue attuali condizioni. Il mio lato sinistro, dice, è ancora parzialmente paralizzato, posso camminare con il bastone, ma ci è voluto oltre un anno. Nel frattempo è in uscita il suo concerto di Budapest del 2016. Per chiudere lo sport, Champions League maschile, le altre partite di oggi. Dario Ricci, ciao Dario, dopo la serata di ieri. Sì, eccoci, i protagonisti sono a San Siro, intanto siamo al 13° di gioco, sto seguendo Inter Borussia Mönchengladbach, risultato di 0-0, un inizio più favorevole ai tedeschi, poi l'Inter ha preso piano piano in mano il pallino del gioco, al 5° minuto una buona occasione su cross di Perisic, il colpo di testa di Darmian all'esordio oggi, alto sulla traversa, ricordiamo un Inter che a poche ore dal match è stata privata da Hakimi, positivo all'ultimo tampone anti-Covid previsto dal protocollo UEFA. 0-0 anche in Danimarca finora per l'Atalanta contro il Midtjylland. Da San Siro per il momento è tutto. Dario, tra l'altro sei appunto dallo stadio di San Siro in diretta e si sente, come sentivamo nei giorni scorsi, questa solennità particolare in cui si sentono i giocatori come appunto fossimo in un campo quasi di periferia, no? A vedere una partita. Sì, ma io credo che ormai a questa sonorità dovrai farci l'abitudine, Roberta, per un po'. E anzi, dobbiamo, diciamo, che senza entrare in discorsi di ampio spettro, accontentiamoci del calcio che possiamo permetterci in questi tempi grami. Dice almeno di vedere dalla televisione. Grazie Dario Ricci. Ciao caro Dario, a dopo per il proseguo della partita. Intanto chiudo velocemente, c'è la viabilità e poi cominciamo ad approfondire alcuni temi in particolare. Per i vostri commenti sempre pagina Facebook di Effetto Notte o 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E rieccoci immediatamente insieme, Roberto Giordano con voi, 60 minuti, lo sapete, sempre ricchi di notizie, di aggiornamenti in diretta e poi i vostri messaggi e soprattutto gli approfondimenti con gli ospiti. Chiede questo ascoltatore, vediamo se lo ritrovo, una sera sono un docente precario, il concorso che partirà domani è anticostituzionale e assolutamente inutile, dice, perché, vediamo se riesco ad aprirlo. Adesso le assunzioni partiranno dall'anno scolastico 2021-2022. Vabbè, lo leggeremo, lo terrò presente Pietro quando poi avremo appunto la segretaria generale della CISL. Adesso invece siamo sull'argomento degli argomenti. In questi giorni e ancora nelle prossime settimane dovremo rimanere ben concentrati, soprattutto sul contenimento del contagio. Siamo consapevoli che il nemico non è stato ancora sconfitto, circola ancora tra noi. Siamo ancora dentro la pandemia e il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l'attenzione altissima. Però forti dell'esperienza della scorsa primavera, dovremo quindi adoperarci rimanendo vigili e prudenti. È uno dei passaggi questi del Presidente del Consiglio Conte oggi nella sua informativa al Senato sul DPCM, sulle misure restrittive decise all'interno di questo decreto e alla luce dell'incalzare costante dei nuovi contagi anche in Italia, quindi non solo, guardavamo agli altri paesi europei come se noi potessimo finalmente pensare di essere un pochino più al riparo, invece stanno crescendo moltissimo anche da noi, avete sentito oggi più di 15.000. Nel frattempo le regioni emettono delle loro ordinanze più restrittive, per esempio il coprifuoco sarà il notturno della Lombardia ma anche del Lazio, che è stato deciso la Campania, già lo sapete, poi c'è il ritorno delle autocertificazioni, situazione che il governo sta affrontando in modo coordinato con gli enti locali, regioni e comuni in particolare, con iniziative mirate. Molte regioni stanno decidendo la DAD, la didattica a distanza per la scuola, avete visto la Lombardia lo ha deciso in modo definitivo, almeno per il momento, e quello che preoccupa però gli esperti sono le situazioni delle aree metropolitane, in particolare Milano, Napoli, Roma. Oggi va Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute, ha detto che sono città addirittura fuori controllo. Voglio chiedere che cosa ne pensa e poi tante altre domande da fare al professor Fabrizio Pregliasco, virologo presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano. Professor Pregliasco, eccoci, bentornato, qua. Buonasera. Buonasera a voi. Lei tra l'altro, non solo Walter Ricciardi ha detto è già fuori controllo la situazione in città come Milano, Roma, Napoli, ma ha detto che ieri diceva che a Milano e in Lombardia la situazione potrebbe essere esplosiva addirittura. Di fatto una situazione di limbo dove le proiezioni con i modelli matematici, con i limiti di ogni modello matematico, che evidenziano in un prossimo futuro, se non si fa nulla, degli incrementi notevoli e importanti rispetto ai ricoveri e alle terapie intensive. Quindi un elemento che fa sì che si debba fare una sterzata in tempo, io spero che tutto questo riesca, proprio per garantire a quella piccola quota di nostri concittadini che comunque si ammalano e si ammaleranno la massima capacità di assistenza, perché oggi si riesce a gestire meglio in anticipo, si sa un po' come trattare anche se non c'è un farmaco risolutivo. È importante dirlo, ad oggi le terapie intensive sono ancora scariche, i reparti si stanno un po' dire affollando, anche mi dicono i colleghi clinici che una quota di soggetti sono arrivati al ricovero, vuoi problemi sociali, vuoi nel dubbio e nella paura di questi primi momenti, ma una quota di loro diciamo sta meno, ecco, diciamola così, nel senso che la situazione è ancora sotto controllo, però è fondamentale, come dire, evitare che ci sia un eccesso di richiesta, che ci sia un'ansia eccessiva, ma soprattutto tanti casi, perché è vero, questo virus ha una peculiarità, è un virus che determina malattie del tutto inesistenti di fatto, infezioni che non hanno rischio per i giovani, per i soggetti adulti, ma queste persone, seppur sicuramente molto meno, dobbiamo ancora capirlo esattamente, comunque sono contagiose per gli altri e quindi mantengono quella che è una catena di contagio che stiamo vedendo essere in questo momento anche peggiore. Cioè, vedo nel mio contesto milanese, addirittura nell'ospedale che dirigo, nelle famiglie, nell'associazione di volontariato che presiedo, ormai tante persone colpite, quindi addirittura con una pervasività maggiore rispetto alla prima ondata. Senta, professor Pregliasco, Agostino Miozzo, che è presidente del Comitato Tecnico Scientifico, l'organo di consulenza da mesi del governo, ha detto: non abbiamo fatto tutto quello che avremmo dovuto fare. Per esempio? Sicuramente una maggiore capacità di tracciamento fin quando era possibile per bloccare i focolai. Ora i focolai sono fuori controllo in molti casi e non si riesce più a risalire ai singoli. Di sicuro il territorio in generale, perché il modello del medico di famiglia solo, tra virgolette, senza un contesto operativo, come capita ancora in molte regioni d'Italia, è, come dire, una prima vedetta su questi problemi, e non a caso molti dei colleghi terribilmente sono anche mancati nella prima fase, ma non riescono a gestire quel continuum di servizi fra il territorio, l'eventuale sorveglianza e invece un riversamento, come sta capitando anche adesso, come dicevo, nell'ospedale, anche di casi che potrebbero essere monitorati senza anche la spesa del ricovero come tale. Professor Pregliasco, per quanto riguarda le iniziative che stanno prendendo man mano le regioni, no? In particolare la didattica a distanza per le superiori che varie regioni, vari enti locali stanno adottando, ma la questione del coprifuoco, per esempio in Lombardia, no? Che partirà da domani a partire dalle 23, nella fascia 23-5 della mattina, secondo lei è efficace? Che misure proporrebbe lei, sinceramente, se dovesse dire? Questo, io sono parte del Comitato Tecnico Scientifico Lombardo, della Lombardia, quindi era concorde, siamo stati noi a dire, anzi, fare anche qualcosa di più stringente, ma mi rendo conto che questo è un primo step e vediamo come andrà nelle prossime settimane. Diciamo che è una dissuasione per ridurre i contatti non necessari, questo è l'oggettivo motivo di questa scelta, colpendo ovviamente, purtroppo tristemente, una quota di persone che ci lavorano, ovviamente in questa parte della più ludica, più opzionale, nella speranza di riuscire a governare e gestire e continuare a fare quei punti che invece sono essenziali, quello del lavoro in generale e quello della scuola, pur con una riduzione dell'impatto, in particolare purtroppo chiedendo ai ragazzi più grandi di fare una didattica a distanza. Ma secondo lei qual è il limite? Cioè oggi appunto ci sono più di 15.000 nuovi contagi, in Lombardia se non sbaglio oggi sono 2.000. Oltre 4.000 positivi, 4.000 positivi. Quindi a che limite bisogna arrivare per predisporre delle misure più stringenti, come lei diceva, le avevamo in mente, ma per il momento si va per passi graduali, insomma. Sì, si tratta di vedere quale può essere soprattutto l'impegno delle terapie intensive, che sono l'elemento più critico. Quando arriveranno, dovessero arrivare, io spero di no, al 50%, e quindi lì allora bisogna stringere ancora di più la vita. Il presidente di RBM, il centro di ricerca di Pomezia, che insieme all'Università di Oxford sta sperimentando questo vaccino che è acquistato da AstraZeneca, oggi aveva confermato quello che Conte ha detto qualche giorno fa, cioè che a dicembre ci saranno le prime dosi pronte. Poi oggi era successa una cosa che poi è stata smentita, per cui va avanti la sperimentazione, però per esempio l'immunologa Viola, l'ho sentita sulla 7 in una trasmissione, aveva detto non creiamo troppe aspettative, perché poi in realtà a dicembre andrebbe certificato il vaccino e le dosi si potrebbero soltanto somministrare in primavera e prima di tutto a certe persone, a certe categorie fragili, poi ci sarebbe un richiamo per queste persone fragili, finché arriva a tutti in realtà i tempi sono lunghi. Lei condivide, professor Pregliasco? Sì, assolutamente, nel contratto con i governi questi progetti hanno previsto peraltro una produzione già iniziale prima della registrazione, e quindi un po' di lotti saranno magari presenti rapidamente, però il grosso dell'industrializzazione necessita diverso tempo, mesi, quindi si vorrà del tempo. Professore, il ministro Speranza, il ministro della Salute, anche ieri ha consigliato, ha ribadito: uscite il meno possibile di casa, se non è necessario, se non ci sono delle urgenze, evitate. Lei è d'accordo o le sembra eccessivo? No, ci vuole. Perfetto, rimanga in linea, grazie. Professore, so che deve andare tra pochissimo, riesce a rispondermi a quest'ultima domanda? Sì, io dico che assolutamente è importante ridurre tutti i contatti non essenziali, questo è il messaggio e lo spirito di queste ulteriori disposizioni. Grazie professor Fabrizio Pregliasco, buon lavoro, buona serata, buona continuazione. Qui allora lasciamo il professor Pregliasco, vedo appunto i vostri messaggi a proposito del... qualcuno dice... sono inorridito dalle parole, far credere che è più facile il contagio nelle ore notturne che sui mezzi pubblici. Effettivamente questo è un qualcosa di così, un po' di controverso, di contraddittorio, che è apparso a molti. Questa cosa la questione dei mezzi pubblici la stiamo trattando con Effetto Notte da settimane. Effettivamente su questo, in questo settore, forse qualcosa di più si poteva fare e per tempo. Gli amministratori locali, alcuni parlano di percezione delle persone, però le immagini le abbiamo viste, ne abbiamo parlato più volte anche con il presidente di Astra, dell'Associazione del Trasporto Pubblico Locale, che diceva che effettivamente insomma la capienza all'80%, ridurla significherebbe, cioè, permettere a meno persone di salire, di fare assembramenti davanti alle fermate, alle banchine, eccetera. Per lo più si è trovata la soluzione di fare la didattica a distanza per i più grandi, perché non si riesce a organizzare meglio in tempi rapidi il trasporto pubblico locale, per cui insomma, diciamo, le questioni sono tante. Sicuramente una situazione complicata, lo vedete anche cosa succede negli altri paesi, anche proprio intorno a noi, dalla Francia alla Gran Bretagna alla Spagna. Non è facile, qualcosa di meglio si poteva fare, e speriamo e immaginiamo insomma di essere man mano, come ha assicurato Conte, sempre più pronti e in tempi brevi per questa seconda ondata che abbiamo davanti, del resto tutto l'inverno. Ci sentiamo a momenti. 349-238-6666 il numero per i vostri WhatsApp, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se siete qui a Effetto Notte, siete per un buon motivo, per un giusto motivo, quello di non rimanere fuori dal mondo e di sapere sempre a fine giornata quello di più importante c'è da conoscere dall'Italia e dal mondo. Ve lo racconta Roberta Giordano tutte le sere, dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì, insieme poi agli ospiti, approfondimenti su argomenti in primo piano. Tra poco abbiamo parlato adesso col professor Pregliasco della situazione più in generale, dell'informativa di oggi di Conte sul DPCM, delle misure restrittive che stanno adottando man mano diverse regioni, dei contagi che purtroppo continuano a salire. Chiede questa ascoltatrice, dice: prego di non citare il mio nome, grazie, ma se non si firma non lo vedo neanche, dice. Buonasera, chiedo perché non viene imposto alle aziende di far lavorare in smart working i dipendenti che già lo hanno fatto e non li fanno lavorare in smart working durante il lockdown. Io ad esempio ho lavorato, cioè quelli che l'hanno già fatto in lockdown, io ho lavorato in smart working durante il lockdown, dice, e da maggio sono stata richiamata in azienda 3 giorni a settimana. Che senso ha? Non sarebbe meglio, dice, che chi può lavorare in smart working anche nel privato sia obbligato a farlo, perché nelle aziende i protocolli di sicurezza sono ancora quelli di maggio. Anche la questione dello smart working è una situazione, una questione che va sempre più dettagliatamente affrontata, perché a parte lasciare i ragazzi in didattica a distanza, sicuramente, probabilmente, quando i numeri man mano inevitabilmente cresceranno nell'inverno, lo vediamo di giorno in giorno, forse sarebbe bene che chi può fare smart working lo faccia, piuttosto che appunto il lockdown generalizzato che il governo sta cercando di evitare in tutti i modi. Adesso ci concentriamo sulla scuola. Le attività scolastiche continueranno in presenza. Lo dobbiamo all'impegno sin qui riposto dai nostri dirigenti scolastici, dai nostri docenti, dal personale ATA. Lo dobbiamo anche alle famiglie, ma lo dobbiamo soprattutto ai nostri ragazzi, che non possiamo lasciare privi del valore di un'esperienza irripetibile di formazione culturale e umana che si realizza nella scuola. Solo per le scuole secondarie di secondo grado sono previste modalità ancora più flessibili di organizzazione dell'attività didattica. Nel riferire oggi in Parlamento, appunto, come vi dicevo, del decreto emanato nei giorni scorsi, delle nuove misure anti-Covid, Conte si è soffermato naturalmente anche sul tema cruciale, delicato e molto dibattuto della scuola. Ha detto che le attività scolastiche continueranno in presenza, però ha detto che in molte parti d'Italia, in diverse regioni, c'è una certa flessibilità, un'alternanza tra scuola didattica in presenza e a distanza, però per esempio avete visto che il presidente della regione Campania la scorsa settimana ha emesso questa ordinanza di chiusura per un po' di tempo delle scuole di ogni ordine e grado, voleva riaprire in realtà lunedì le scuole elementari, ma pare che questa cosa slitti. E poi invece la Lombardia, che oggi lo ha proprio definito con un'ordinanza, tutte le scuole superiori proseguiranno fino al 13 novembre con la didattica a distanza. Poi è anche vero che nei giorni scorsi c'è stato un lungo braccio di ferro tra il governo e le regioni che chiedevano, proprio per decongestionare il trasporto pubblico locale, di lasciare ragazzi e ragazze delle superiori a casa con la didattica a distanza. Grande contrarietà della ministra dell'istruzione, anche se poi appunto poi c'è stato questo conflitto col presidente della regione Campania De Luca. Insomma, però appunto varie regioni, anche Lazio per esempio stasera ha deciso che almeno il 50% per le scuole sarà di didattica a distanza nella regione Lazio. E i sindacati oggi lanciano un allarme, dicono: oggi non abbiamo potuto incontrare i rappresentanti del ministero intorno a quel tavolo per la sicurezza che era stato previsto e non abbiamo ricevuto i dati sui contagi a scuola, né sappiamo quanti sono i casi nelle scuole. Lo hanno detto in una conferenza stampa i sindacati della scuola, CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda. E allora a parlarne c'è Maddalena Gissi, che è segretaria generale della CISL Scuola, che saluto, grazie di essere qui. Buonasera a voi. Grazie. Quindi ancora insomma non si è composto il vostro rapporto con il Ministero dell'Istruzione, continua a esserci un po' un conflitto. Quali sono i problemi maggiori in questo momento, Gissi? Continuano ad esserci i problemi che abbiamo da sempre denunciato. Ho sentito le parole del Premier Conte, se quelle belle parole le avesse tradotte in impegni reali e le avesse realizzate da qualche mese, penso che alcuni problemi potevano essere o affrontati in modo diverso. Noi non riusciamo ancora ad avere quel contatto che chiediamo alla ministra per aprire un confronto, un dialogo e costruire insieme anche delle soluzioni. Abbiamo la sensazione che ci sia molto di più di quanto appare. Tant'è che le regioni di fronte alle loro situazioni, anche alla difesa dei loro cittadini, stanno agendo di conseguenza. Quindi ci chiediamo, la ministra che interesse ha nei confronti del personale e delle famiglie e degli alunni? C'è anche il Piemonte tra le diverse regioni e forse domani ci si aggiungeranno molte altre regioni, perché la condizione di contagio sta dilagando ed entra attraversa le nostre scuole. Noi vogliamo le scuole aperte, lo abbiamo affermato, è un principio fondamentale, ci stiamo battendo perché ci siano le condizioni. Però l'ultima di oggi pomeriggio è che alle scuole sta arrivando una comunicazione che vieta di utilizzare i finanziamenti per le nomine dei supplenti, quelli chiamati organico Covid, quelli che servivano proprio per il distanziamento, per comporre classi meno numerose, perché hanno sbagliato i conteggi e quindi hanno creato un problema al nostro bilancio e hanno bloccato immediatamente la distribuzione delle risorse, perché dovranno rifare i conti. Quindi c'è superficialità, pressapochismo, molta indecisione, o perlomeno c'è c'è la voglia di decidere solo quando magari si deve trattare di precari e di decisioni nei confronti di chi magari è molto più fragile. Gissi, la farei sentire Conte, che parla però di risorse, oggi ha parlato anche di risorse su scuola e trasporti, sentiamo. Abbiamo investito miliardi su trasporti, scuole, università, uffici pubblici per garantire condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e di studio, adottando protocolli che tutelino studenti, lavoratori, li pongano in grado di proseguire nelle ordinarie attività. Ecco, quindi ha parlato di nuove risorse, Gissi. Non la convince. No, non sono per niente convinta, anche perché le nuove risorse vogliamo capire come devono essere definite. C'è un annuncio di 25.000 posti di sostegno per assumere personale di sostegno, siamo contentissimi, l'importante è capire quando vogliono farlo e con quale modalità. A fronte di 90.000 precari, molti di questi senza titolo, che insegnano ai ragazzi disabili e ai bambini disabili, è chiaro che 25.000 sono una bella cifra, però forse vorremmo capire anche con quali modalità, con quali tempi, e non ritrovarci quello che è avvenuto quest'anno, che stabiliva 85.000 assunzioni e poi ne hanno fatte solo 22.000. Però domani, quindi, Gissi, parte il concorso straordinario con un bando per 32.000 posti, no? Voi avete cercato, mi ricordo anche il Partito Democratico ha chiesto più volte di rimandarlo questo concorso per questioni di sicurezza, però la ministra Azzolina ci teneva, diceva qui l'abbiamo rimandato tante volte, se non si fa adesso quando lo faremo? Comunque, insomma, ha assicurato che ci saranno tutti i protocolli di sicurezza, tutte le misure di garanzia, inizia alle 8 e poi andrà avanti per diversi giorni, fino al 16 novembre, no? Se non sbaglio. Certo, sì. Domani il numero interessato è un numero un po' più contenuto. 1645, però, no? Sono attesi. Sì. A fronte di questo, però, ogni docente che deve partecipare a secondo della classe di concorso si sposterà da una regione all'altra, c'è chi dalla Sardegna arriverà nel Lazio o andrà in Campania, e così gli incroci delle assegnazioni sono state fatte a tavolino secondo uno schema che rispecchia i concorsi degli anni scorsi. Quindi anche in piena epidemia nessuno ha colto e ha compreso che forse non andavano modificate anche le modalità. Se un gruppo di docenti si sposta dalla Sardegna e arriva nel Lazio, probabilmente avrà bisogno di più tempo, dovrà si assenterà da scuola, perché sono tutti docenti in servizio. Quindi nei prossimi giorni avremo tutte le assenze di questi docenti che a vario titolo devono anche raggiungere le sedi, e se si spostano da una regione all'altra ci impiegano almeno 2 giorni. O forse anche 3. Quindi dice non solo una questione di sicurezza, ma anche di logistica, nel senso che in pieno inizio ormai ha avviato. Insufficiente anche la valutazione di quali potevano essere le conseguenze di questi spostamenti. Oggi avevano assegnato una scuola che è stata nel comune di Arzano, la scuola chiaramente, il comune è zona rossa. un comune che chiaramente non può essere, non si può andare in quella scuola, e quella scuola quindi è stata immediatamente revocata l'organizzazione presso quella scuola, bisognava trovarne un'altra. Senta Gissi, quando l'avreste fatto voi questo concorso? Allora, le modalità di questo concorso, io personalmente avevo anche proposto durante le vacanze di Natale, se proprio doveva essere necessario il concorso, ma sono le modalità che possono essere superate. Avevamo detto, la nostra proposta era facciamo le assunzioni sulla base di un concorso durante l'anno, una prova selettiva finale con una chiaramente valutazione di una commissione anche con soggetti esterni e con il dirigente scolastico e il comitato di valutazione di scuola che segue per tutto l'anno il percorso del precario in servizio. Vabbè, comunque, quale insomma, migliore valutazione? Invece ci sarà quindi domani. Allora, dice questo ascoltatore, Pietro, sono un docente precario, il concorso che partirà domani è anticostituzionale, assolutamente inutile. Adesso le assunzioni partiranno dall'anno scolastico 2021-22, perché fa spostare tanta gente tra le regioni? Io ad esempio devo andare dal Piemonte fino in Lombardia, provincia di Brescia, 150 km. Il ministro Speranza spiega che bisogna evitare spostamenti e noi invece siamo costretti ad andare in giro per l'Italia. Vi sembra una cosa normale? Perché non si rimanda? Dice, io sto chiedendo a tutti, ma comunque insomma domani. Lo stiamo chiedendo a tutti, lo chiedono tutti, veramente lo hanno chiesto anche i rappresentanti del Movimento 5 Stelle che hanno approvato la mozione in Lombardia del Consiglio regionale lombardo. Quindi è solo e soltanto una forma ideologica di testardaggine. Aver deciso di fare una cosa con avere un progetto, avere un obiettivo, la volontà di portarlo avanti è più forte di qualunque pandemia. Io mi auguro che non ci siano elementi che alimenteranno questa pandemia, e nello stesso tempo sono preoccupata per tutti i colleghi che vivono la quarantena in questo momento, perché in molte scuole c'è quarantena, quindi alcuni di questi sono vincolati a rimanere a casa in attesa magari del tampone, sono in quarantena preventiva o fiduciaria, e per loro non è stata nemmeno prevista la prova supplettiva. Quindi ancora una volta testardaggine, chiusura al dialogo e autoreferenzialità. Insomma, molte le critiche, però speriamo che domani vada, a partire da domani, tutto per il meglio. Io mi per questi che vada per il 32.000 meglio. Posti che finalmente certamente, tanti precari possano finalmente essere stabilizzati. Grazie, certamente. Grazie Maddalena Gissi, grazie, buon grazie, lavoro a lei, buona serata. A voi, grazie. E c'è la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Stavo guardando tra l'altro che ci sono alcune dichiarazioni di Stefano Bonaccini, che non solo è presidente della regione Emilia-Romagna ma anche presidente dei presidenti di regione, cioè della conferenza delle regioni. Dice: dobbiamo stare molto attenti, il virus sta crescendo in tutta Europa, dove va peggio che da noi, bisognerà vedere tra qualche giorno se la mascherina all'aperto e l'ultimo DPCM porteranno risultati. Dice: essere assolutamente pronti a prendere misure restrittive mirate, perché un nuovo lockdown generalizzato non se lo può permettere nessuno, ha detto al TG2 Post. Bisogna contenere la crescita del virus dividendo le cose indispensabili come scuola e lavoro dalle altre, valutando giorno per giorno con il governo, ha detto Bonaccini. E poi ha detto: chiudere i confini delle regioni, mi auguro di no, così ha risposto. Un lockdown generalizzato significherebbe passare alla pandemia economica sociale, se aumenteranno i contagi, ha proseguito Bonaccini, serviranno ulteriori restrizioni, bisognerà decidere quali ambiti ci si può permettere di chiudere e quali no. Fabbriche, negozi e scuole non si possono chiudere, dice Bonaccini. Effettivamente la scelta diventa molto complicata. Adesso però una scelta, una svolta l'ha fatta, almeno nelle parole, il Papa. Sentiamo. La persona omosessuale tiene il diritto a stare nella famiglia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por esa gente. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso. Avete sentito nella sua lingua, lo spagnolo, il Papa argentino, Papa Francesco, nel documentario Francesco presentato oggi al Festival di Roma. È quella che è una notizia che io definirei bomba, detta da un Papa. Mai i suoi predecessori hanno parlato in questi termini, forse lo avrebbe fatto Papa Luciani se non avesse avuto solo 33 giorni di vita come Papa. E questa è davvero una svolta, perché ha detto il Papa in spagnolo praticamente che è favorevole alle unioni civili per le coppie gay, ha detto gli omosessuali hanno il diritto di far parte di una famiglia, sono figli di Dio e hanno il diritto a una famiglia, ha detto che lui intende difendere questo diritto a essere coperti legalmente. Allora ne voglio parlare con il nostro vaticanista d'eccezione del Sole 24 Ore, Carlo Marroni. Ciao Carlo. Ciao Roberta, grazie. Insomma, a me sembra veramente una cosa enorme, oltre che positiva. Ho visto tanta parte di politici del centro-sinistra, del Partito Democratico, ma anche della vedova segretario di Più Europa e anche dal Movimento 5 Stelle, la sindaca di Torino Appendino, insomma, ha detto veramente parole coraggiose, una grande rivoluzione. È effettivamente così, Carlo? Allora, sì, due o tre cose velocemente. Così come l'ha detta oggi, che poi non è oggi, è una registrazione, ma insomma è comunque uscita oggi, no, non l'aveva mai detta così rotonda, così forte e precisa. Diciamo che però gli atti e i fatti che aveva portato avanti lui da quando è Papa e da quando prima che fosse Papa sono tutti coerenti, cioè lui ha sempre detto questa cosa, e così come la sta dicendo ora, cioè un quadro giuridico delle convivenze delle coppie omosessuali o non omosessuali, diciamo un quadro giuridico chiaro e netto di riconoscimento ci deve essere, sempre detto, e ha portato la Chiesa italiana, per esempio, che era invece su posizioni opposte qualche anno fa, a essere su queste posizioni qua. La storia della Chiesa, questo chiariamolo, non l'ha detto in questa intervista, rimane contraria ai matrimoni. Infatti in Italia, non perché il Parlamento ha fatto quello che dice la Chiesa, però fu accettata nel 2016 una legge che appunto regolava le unioni, che non erano matrimoni, non solo, ma tecnicamente dei matrimoni, e c'è anche la questione delle adozioni, che in Italia non è passata, e cioè però in altri paesi è possibile, cioè la stepchild adoption, cioè l'adozione da parte del padre del figlio dell'altro parte, nelle coppie omosessuali. Sì. Questo perché anche per in visione della questione della maternità surrogata, che è una questione ancora più complicata, e lì c'è, insomma, è anche un'altra questione su cui la Chiesa, ma non solo la Chiesa, diciamo, sono molto, diciamo così, ci sono dei dubbi, chi è a favore e chi è contro. Però così come la stiamo dicendo oggi è una svolta oggettivamente, quantomeno lessicale, e però nei contenuti un po' ci eravamo arrivati. Quindi quello che dice è giusto, è clamoroso per il fatto in sé. Quindi delle aperture c'erano già state, ma mai, dice, in modo così esplicito. Tra l'altro ricordo, perché vedo per esempio un'ascoltatrice, Anna, dice: cara Roby, non mi piace che il Papa regolarizzi le unioni omosessuali, la promiscuità ed addio vietate. Tanto omosessualità e promiscuità non è che sono per forza insieme. Un eterosessuale, un uomo può andare con 150 donne, così una donna eterosessuale con 1000 uomini, questa è la promiscuità. E poi ognuno, ecco, le coppie. Tra l'altro vorrei ricordare ad Anna, come ad altre ascoltatrici e ascoltatori, che come diceva appunto, anche lo ricordava Carlo Marroni, in Italia c'è una legge ben precisa dal 2016 che rende le unioni civili assolutamente possibili in Italia, regolate appunto dalla legge, non sono dei matrimoni, però più o meno funzionano nello stesso modo. Non solo, la storia delle adozioni, che è stato quello il nodo, il punto di caduta, noi domani sul Sole 24 Ore, permetti di ricordare, gli diamo ampio spazio anche diciamo in mezzo alle manovre e a tutta resta anche su questo tema, certo. Diciamo la giurisprudenza, cioè alcuni tribunali hanno in qualche modo aperto il varco anche su quello, cioè la legge è stata in parte superata da alcuni passaggi, diciamo, giurisprudenziali. Dici in Italia, quindi, per esempio, quando si tratta di due mamme, spesso, no? Perché una delle due fa mamme, direttamente il bambino, la bambina, insomma, non è una maternità surrogata chiesta a un'altra donna. No, ma per esempio, sull'adozione del partner, io dico, sì. Cioè la partner in questo caso può adottare. Ha già un figlio, può, sì. Chi ha già un figlio. Quindi, diciamo, questo è il tema. Invece, come sappiamo, in Italia non è prevista la legge, da nessuna legge, la maternità surrogata, almeno per ora, e questo determina anche in qualche modo il turismo, diciamo, in paesi come la Spagna o altri dove questa cosa è possibile, e quindi questo, insomma, facilmente aggirabile per chi c'ha i soldi, soprattutto, questa è una vecchia storia, diciamo di vecchia data. Quindi questo era. E naturalmente rispondere alla tua ascoltatrice, alla nostra ascoltatrice, il Papa non è che sdogana, cioè il Papa non legifera, ha detto un'opinione. Chiediamoci una cosa, perché è stata anche chiarita stasera da un teologo della Santa Sede, non cambia niente della dottrina, la dottrina della Chiesa rimane quella, questa è la pastorale, cioè la quotidianità della vita della Chiesa, di quello che dice all'interno del proprio magistero. Ecco, questo anche per i cattolici che hanno paura che questo Papa stravolga e vada chissà dove, cioè non viene cambiata, perché un pazzo non si può cambiare attraverso un'intervista in un film, casomai ci vogliono dei documenti, però ecco, non si cambia, perché la Chiesa in questo senso i suoi principi li ha mantenuti. Però ha detto, ritengo appunto che sia esatto, giusto che abbiano anche le persone dello stesso sesso una famiglia. A proposito, invece, abbiamo ancora proprio un minuto, Carlo. Il Papa in questo momento lo senti accerchiato con tutte le vicende, no, che stanno succedendo da diverso tempo, e lui comunque insomma continua la sua marcia, la sua direzione verso come Papa Luciani, che io ho ricordato, ha cominciato a mettere un po' in chiaro, vuole vederci chiaro nelle finanze del Vaticano, nelle varie manovre che magari prima erano poco sotto controllo, comunque diciamo che insomma in tutto il suo mandato sta facendo delle cose piuttosto innovative, a parte la... Allora, questo è quello che dici, è giustissimo, la riforma che lui ha iniziato delle finanze della Curia nel 2014 è andata avanti, a volte anche diciamo non bene, ha preso anche delle decisioni che a volte sono rivelate insomma non immediatamente efficaci. Ora ha ricambiato tantissimo anche le persone, non erano giuste forse quelle che all'inizio erano state messe o quelle che c'erano rimaste, e lo spaccato che sta venendo fuori in questi giorni è drammatico, a volte anche quasi tra il comico e il tragico. Il grottesco, insomma. E poi tra l'altro vediamo man mano vengono fuori particolari anche sull'inchiesta che riguarda il cardinal Becciu, eccetera eccetera. Però ecco, adesso mi dicono che no, abbiamo già Dario Ricci in collegamento, allora grazie ancora Carlo Marroni. Ciao Roberta, grazie a Carlo, tutti. Grazie di tutto. Ciao. Buona serata. Ciao Carlo. Dario invece sulla Champions League è a seguire l'Inter a San Siro, allo stadio di San Siro. Come prosegue la partita, Dario? Eh sì, passiamo dal sacro al profano, visto l'illustre ospite che mi ha preceduto. Siamo qui nell'intervallo di Inter Borussia Mönchengladbach 0-0, un Inter che ha iniziato Guardinga, Inter che lo ricordiamo ha dovuto rinunciare ad Hakimi, risultato positivo nell'ultimo tampone pre-gara, bene comunque Darmian che ne sta facendo le veci, un'Inter guidata dalla sagacia tattica di Vidal, che ha avuto un paio di buone occasioni, un colpo di testa di Darmian alto sulla traversa e soprattutto sul finire del primo tempo un bel diagonale di destro di Lukaku finito fuori davvero di pochissimo. Ma attenzione al Borussia, che è squadra manovriera e che può creare dei grattacapi nel momento in cui si sposta in avanti. Tutto facile finora invece per l'Atalanta in Danimarca, alla fine del primo tempo 3-0 per gli olobici contro il Midtjylland, grazie alle reti dal 26esimo al 42esimo di Zapata, Gomez e Muriel. Roberta. Grazie Dario Ricci, grazie, buona partita, buon proseguimento a San Siro, noi ci sentiamo molto brevemente alle 22. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.